and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, oggi è venerdì, io sono K, vi saluto e facciamo in fretta. E lui se ne va già, e io sono Drago, ecco, ciao però, a tutti, no, veloci, veloci. Allora, parliamo velocemente se di questo. Se non ne approfitti Drago, venerdì diventa immediatamente sabato sera, domenica poi sera, la lunedì. Tristezza della domenica sera, tu mia, ne sai sì, qualcosa, sì. E poi dopo è già lunedì praticamente, quindi sbrigati. Sbrighiamoci. Un bambino di 13 anni è intervenuto al Palasharp 2 settimane fa al convegno di Libertà e Giustizia, sì. E ha fatto una discreta figura come voleva si dimostrare. L'ho visto, era un po' cicciottello, no, i baffi. Ma cosa dici? Sì, ha detto che va letto tardi perché legge Kant lui, no, sì, sì. Beh, c'era anche quel bambino lì che ha quasi 80 anni tra l'altro, vabbè. Ma ce n'era uno che ne aveva davvero 13 e questo ha naturalmente fatto scattare 5.000 polemiche tutte insieme. Il grande bambino Borgonovo dalle pagine di Libero, il capo della cultura, no, ha fatto il paragone tra GT, che sono le iniziali di questo bambino, e Mariangela, la figlia di Fantozzi, cito: costretta a recitare la poesia a memoria davanti ai mega direttori della ditta per ricevere il suo dolcetto natalizio. E quindi in rappresentanza dei bambini italiani. Ma chi? Tu? Sì, io, in rappresentanza dei bambini italiani, dico al bambino Borgonovo che a 13 anni uno può benissimo farsi un'idea su come vanno le cose. Chiaro che se guardi solo The Club e i cartoni animati, no. Però se leggi qualche giornale, guardi un po' di TV e ti informi su internet, invece magari sì. Ma il bambino Borgonovo invece no, lui continua indomito e si dichiara indignato perché il punto di vista del bambino GT, che non è il punto G, no, no, è, cito, probabilmente il punto di vista del suo papà o della sua mamma o chi per loro, insomma di chi l'ha sbattuto su un pulpito a dire che il premier pensa solo a fare festini ad Arco. Vabbè, ma se scrive così si vede che il bambino Borgonovo alleva i propri figli così, dicendo loro come pensare, che cosa pensare, questo, quando pensarla. Questo non puoi saperlo, quindi non vabbè, stare ma lì. Ma se uno ragiona così vuol dire che ritiene che un ragazzino di 13 anni sia un deficiente assoluto. Ma no, ma dai, alla fine è solo un pezzo di propaganda, no? Si attaccano a tutto, no? Quindi ma manca che di rispetto totale nei confronti di noi bambini plus dotati. Non so, Drago, fatto sta che questo sembra un argomento ozioso, invece non lo è, no. Perché se siamo messi così male con adulti e anziani che si comportano come bambini è proprio perché, come dice K, l'abitudine corrente è quella di considerare i bambini e i ragazzi poco più che dei cretini, sì. Non li si ascolta e ci si comporta da cretini davanti a loro sperando che loro non se ne accorgano. Invece se ne accorgono, anzi noi ce ne accorgiamo, sì, sì. Non è che vedere un trentenne all'Isola dei Famosi ci lascia indifferenti, no. Capiamo che in quella testolina da trentenne ci sono dei gravi problemi, capiamo che i vecchi Chietti bavosi hanno la testona pienona di problemoni. Infatti il problemone è che tra poco il bluff dell'età non varrà più niente e anche l'autorevolezza degli adulti andrà a finire chissà dove, giustamente. Un piccolo appello agli adulti: ricordatevi quando vi dava fastidio a quell'età essere trattati con condiscendenza. Sapete cosa vuol dire condiscendenza? Forse no. Perché vi dava fastidio? Perché vedevate anche voi che le stesse persone che vi consideravano meno di zero valevano meno di voi. Ecco, capito? Bravo capo, sai che potresti diventare un leader della sinistra giovanile. Grazie per il giovanile. Sì, è vero che Tony Blair alla tua età era lì per diventare primo ministro britannico, però siamo in Italia e si sa come vanno le cose. Ma poi Tony Blair era di destra. No, Tito, vedi? Lui reagisce giustamente alle castronerie. Tony Blair era Labour, quindi di sinistra. No, era New Labour e quel New voleva dire destra. Ma non vuol dire nuovo. No, vuol dire destra. Compagni, dove siamo finiti? Il mondo cambiò, nel tempo l'idea svaniti, ma la rabbia nel cor ci covò. Tutto inizia nell'89, quando Chetto le spalle ci girò, ma la fede in tosta è conservata, cambiammo il nome. Gira le palle, gira sempre Oi ragazzi, io sono in totale sbatti, Cosa sei? Bambino Alberto, comincia bene, per favore. Cos'è? Già l'intervista è una menata. Cosa vuoi dire? No, è total sbatti. Vuol dire sbattimento totale in inglese, no? Vabbè. Sì, certo. E perché sei in total sbatti? Perché mi sa che sono malato, Ma cos'hai? L'influenza? Magari l'influenza. Cos'hai? Io ho una brutta malattia, e sono sicuro. Ma la TBC? Ma cosa dice brutta malattia? La TBC. TBC. Ma sì, perché i miei genitori, un periodo che non hanno il coraggio di parlarmi, no? Però girano intorno a una strana storia e non riesco a capire. Ma lascia, ti stai immaginando tutto, bambino Alberto, stai tranquillo. Hai tanta fantasia. Ti vengono queste paranoie. Che immaginare? Allora, magari mi date una mano anche voi. Cioè, è un po' di tempo che i miei genitori mi stanno obbligando a vedere dei film, no? Cioè, ma obbligato veramente, Vabbè. Tipo, stasera senza cena è legato alla poltrona. Con gli occhi tenuti aperti, ma come quello di Arancia Meccanica. Così, facciamo un flick of flock. Uno, due, tre, flick of flock. No, ma devi dire. No, ma vedi, è come Basta zitto. Uno, due, tre, flick of flock. Lo devi dire. Ma questa qui è una variante milanese. Comunque, sentite un po'. Cioè, mi metto lì, mi fanno vedere, dico un film. Vediamo un film va anche bene, no? Un po' di distrazione. L'era glaciale, quei film lì. L'era glaciale. No, sono film dell'era glaciale. Senso. Perché mi fa vedere dei film vecchissimi, no? Anche in bianco e nero. Allora, primo film che mi ha fatto vedere si intitolava L'ultima neve di primavera, no? Che sembra un titolo La neve, la primavera. Mai sentito. Sì, magari avventura di gare di sci, vorrebbe così, no? Sì, sì. Invece il protagonista è un bambino, no? Sì. Un bambino piccolo, biondo, che avrà 10 anni. Che è orfano di madre, E il padre, dopo che è morta la madre, cosa fa? Sta insieme a un'altra donna. Vabbè. E il bambino soffre, Vabbè, ho capito. In più il padre è un magnate, no? Quindi è sempre in giro per lavoro. Il bambino è sempre solo. Tipo Marchionne. Chi è? No, importa, vai avanti. Sto padre un giorno si rende conto che ha trascurato il bambino. Allora dice, bambino, andiamo a fare una vacanza in montagna? Ecco, quindi la neve. Per quello. Bello. E vanno in vacanza in montagna, no? Bello, e si divertono. Vanno a sciare. Prendono lo ski lift, vanno su. Quindi rinasce il rapporto, insomma, tra il padre e il figlio. Sì, rinasce il rapporto, però a un certo punto, dopo 3 giorni di montagna, il bambino fa una caduta. E quindi lo recuperano, no? E scoprono che... E che c'è la leucemia. La leucemia è una roba brutta, capito. Che poi non ho capito cosa c'è tra la caduta che poi le viene la leucemia. Ma la leucemia sì, perché l'hanno vista dopo che l'hanno visitato per la caduta, insomma. Allora il padre lì dice, mio figlio è malato. Allora tornano a casa, no? Adesso finalmente, dopo tanto tempo separati, il papà e il bambino stanno sempre insieme dalla mattina alla sera. Certo. Però il bambino è malato. Solo che dopo una settimana il bambino muore. E il film finisce così. E il film finisce così, il bambino morto, no? Era già un quarto d'ora prima della fine che volevo staccarmi. Ma lì tiravo, ma c'era la corda, mi sono venuti anche dei segni sui polsi. È triste. Poi un bambino si può identificare. È un filone questo dei film della leucemia incombente che ha dominato verso la fine. Anche Love Story, non c'era il bambino ma c'era la leucemia. Insomma, questi anni 70 un po'. 70, no? Sì. Sono tutti film che dei miei genitori, io che ne so. Sì, questo è il primo, Poi vado a dare un altro che si chiama L'albero di Natale. Perché ha tutti i titoli che sembra che dice è un film per bambini. E invece qui il bambino, un biondino, orfano. Orfano di madre, anche lui. Sempre che è di madre, poi l'ho capito, perché uno soffre di più se muore la madre, no? Allora. Già in partenza. E il padre anche qui è un finanziere, uno sa se può fare. Cioè, il film è uguale. È William Holden, mi sa. Non importa, vai. E comunque questi lì vanno in mare. La montagna al mare. Una gita in mare, in barca. I sceneggiatori hanno fatto questa variante, dalla montagna al mare. So che vanno vicino a dei posti dove ci sono delle robe nucleari, delle cose strane, no? E c'è un incidente, no? Sì. Però per adesso stiamo bene. Oi bambino, stai bene? Sì, anche tu papà, ok. Poi vanno a casa, tutti contenti, e il padre nota che il bambino c'ha una specie di livido, una macchia scura sulla fronte. Dice, cos'è? Ma è una puntura di insetto. Vanno dal dottore. Ma il dottore, guarda che mi sa che è un insetto appunto mio figlio. E no, non è che è un insetto, E suo figlio c'ha la leucemia. Anche lui, no? Ma no! Come? Ah sì, sai perché? Perché il padre si era tuffato in acqua mentre c'è stato questo incidente. Quindi il bambino è rimasto fuori e è stato irradiato. Il padre no. E no, perché era stato protetto dall'acqua. Era William Holden. C'è anche il senso di colpa. Quindi il bambino ha la leucemia, anche lui. Che poi anche questo padre aveva trascurato il bambino, no? Sì. Quindi tornano a casa, perché tornano sempre a casa, e allora si pente. Allora, siccome il bambino era appassionato di lupi, Sì. Il padre, insieme alla sua nuova fidanzata, è un'altra sofferenza, che uno vede la donna vicino al padre, ma... non è la madre. Ma se gli voleva bene. Ha ragione, una sofferenza. La famiglia deve essere tradizionale. Li prendono tra quattro lupi, no? E sta con lui, il bambino sta bene con i lupi, tutto contento, gli sembra che finalmente la vita c'è, c'è quasi una nuova mamma, quasi. Quasi. E sì, perché non fa in tempo, è perché è Natale, è la mattina di Natale, e c'è l'albero di Natale tutto colorato, i lupi, e il bambino dice, uè, i regali? E poi muore. Che arriva al fine settimana, passano due giorni e tutto è come prima. Non fa rima. Non fa rima, però non importa. Mandate i vostre strofe alternative alla sigla di Chiedo Asilo a chiedoasilo@radio24.it. E ringraziamo, salutiamo i nostri collaboratori, i bambini Margherita Ina, Claudia Carusi, Carmelo Lauricella, Alberto Caserini, Daniel Plenz. Questo è il blues di Chiedo Asilo e siete voi che lo componete. Chiedo Asilo è radio24.it. Chiedo Asilo.